tic-tac. La pioggia arriverà fin dentro lo spiraglio della mia finestra. Fischio di vento, sento il mondo tremar. Che paura che mi va questa forte pioggia. Roma va a llover, una buena va a caer, que todo se lo lleva, todita la pena, que todo se lo lleva hacia el mar. En Roma va a llover, una buena va a caer, que todo se lo lleva, todita la pena, que todo se lo lleva hacia el mar. Un'inondazione sulla società. Vorrei stare qui a vedere se qualcosa cambierà. Fango, melma, l'acqua si trascinerà via con sé, via da me, tutte le impurità. In Roma va a llover, una buena va a caer, que todo se lo lleva, todita la pena, que todo se lo lleva hacia el mar. En Roma va a llover, una buena va a caer, que todo se lo lleva, todita la pena, que todo se lo lleva hacia el mar. Sorriso, anche se un po' infreddolito, alzerà le mani, griderà e aspetterà fiducioso l'indomani ancora uggioso.